la rivincita delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati sui 103.1 per una nuova puntata della Rivincita delle Bionde. Come sempre, per voi e i nostri microfoni, Erika Berdecchi e Carlotta Calerese. Ciao Erika! Ma ciao Carlotta, buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati e ben ritrovati sulla Rivincita delle Bionde. Insomma, come avete trascorso il vostro weekend? Noi studiando, e non solo per preparare la puntata, giusto Carlotta? Esatto, perché dovete sapere che noi lavoriamo, facciamo continue ricerche, interviste, quindi siamo sempre in continuo movimento per voi. Esatto, continuo movimento, così magari riusciamo a rispettare il proposito della scorsa puntata, sì. Ovvero quello di fare sport, fare movimento, attività fisica. Sì, peccato che il movimento che facciamo noi è da un libro all'altro, visto che ti ricordo, carissima Erika, che questa settimana abbiamo due esami universitari. Non me lo dire, non me lo ricordare. Ma bando alle ciance, i protagonisti, o meglio le protagoniste di oggi, sono tre donne forti, coraggiose, per cui noi vi racconteremo la loro storia, la loro fuga e soprattutto il loro riscatto e, come piace dire a noi, la loro rivincita. Ma ti interrompo subito Carlotta, perché prima ascolteremo un brano musicale. Sarà breve ma intenso, ve lo prometto. Come dite voi bolognesi, brenzo. Ma basta con questi termini bolognesi, Vez. A tra poco. Ci sintonizzati sui 103.1 sulla Rivincita delle Bionde per questa quinta puntata alla pausa pranzo del lunedì, e io e Carlotta vi nutriamo a pane e cultura. Comunque Charlie, tu mi rimproveri perché parlo bolognese e poi mi saluti dicendomi Vez. Ma ormai mi avete plagiato, che ci posso fare io? Sì, sì, vabbè. Comunque abbiamo appena ascoltato Respect della suprema Aretha Franklin. Respect è un brano del 1967. Esattamente, proprio in quell'anno questa canzone diventa un inno di quei movimenti, come per esempio i movimenti femministi e anche quelli per l'abolizione delle ancora forme di apartheid. Appunto diventa un inno, e soprattutto la richiesta di rispetto che è presente e contenuta in questa canzone viene diffusa in tutto il mondo e soprattutto nell'intera società statunitense. Esattamente, tra l'altro restiamo in tema perché come playlist abbiamo scelto delle canzoni cantate da donne, quindi una playlist di voci femminili, donne che hanno avuto la loro rivincita nella musica e tramite la musica mandano un messaggio di liberazione. Ma come vi abbiamo annunciato prima del brano, le protagoniste della puntata sono tre combattenti, quindi è tutto in tema. Iniziamo da Agitu Idea Gudeta. Agitu è un'attivista e imprenditrice etiope arrivata a Roma a 18 anni con una borsa di studio universitaria. Conclusi gli studi in sociologia, ha deciso di tornare nel suo paese, in Etiopia, per lavorare in alcuni progetti di agricoltura sostenibile. E in Etiopia è diventata anche un'attivista sostenendo la causa di contadini ai quali purtroppo il governo decide di espropriare le terre per venderle poi alle multinazionali. Tra l'altro, multinazionali che sfruttano questi contadini per pochissimi centesimi al giorno, pensate, neanche 90 centesimi. A causa del suo attivismo, quindi, Agitu è stata costretta a fuggire di nuovo in Italia e ha trovato rifugio in Trentino. Qui ha realizzato il suo progetto La Capra Felice, con cui ha recuperato terreni in abbandono e li ha valorizzati, trasformandoli come pascolo incontaminato per il suo gregge di capre, tra l'altro una specie particolare di capre perché sono appunto in via di estinzione. Questa capra, questo tipo di capra, si chiama capra mochena, o come piace dire ad Erika, mocena. Sì, perché non sappiamo effettivamente se è mochena o mocena. Comunque, Agitu quindi oggi alleva le capre, trasforma il formaggio con metodi tradizionali, ma soprattutto propone un modello di azienda agricola biologica, sostenibile e che possa stimolare chi desidera realizzare nuovi modi di vivere e di lavorare. Ma per saperne di più, ascoltiamo le parole di Agitu, perché abbiamo un breve estrapolato di intervista. Ascoltiamo le sue parole. In Italia sono arrivata nell'età di 18 anni, ho fatto l'università in Italia e poi sono tornata in Etiopia perché mi piaceva l'idea di lavorare sui progetti di agricoltura sostenibile. E entrano i multinazionali, comprano spazi enormi, coltivano canna da zucchero, olio da palma, fiori. Quindi la nostra comunque resistenza al fatto di dire no a un sistema che non porta beneficio non era accettato, quindi il governo ci dava caccia. Per mettermi in salvo sono scappata dall'Etiopia, sono arrivata in Trentino e da lì parte questo progetto di recupero, di valorizzazione sia del territorio che del prodotto. Faccio formaggi caprini, attualmente ho 80 capre in lattazione, l'azienda si chiama La Capra Felice, quindi un po' di positività, un po' di felicità. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in their faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, drop another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves? Abbiamo appena ascoltato Crucify di Tori Amos, cantante americana che purtroppo ha subito violenza sessuale. Ma continuiamo a parlare di Agitu, la nostra protagonista. Lei nel mondo agricolo racconta di aver subito alcune discriminazioni. Forse perché si tratta di un settore gestito spesso da uomini e che fa fatica ancora ad accettare nuove figure femminili. Esattamente, ma infatti le donne purtroppo ancora oggi, anche oggi, sono escluse oppure subiscono dei pregiudizi in alcuni settori lavorativi. Ma anche Agitu ha qualcosa da dire a proposito, perciò ascoltiamo la seconda parte della sua intervista. Donne, chi siamo? Cosa stiamo facendo? Il nostro ruolo nella società qual è? Anche l'assenza proprio quasi totale nel comando generale delle donne, dal mio punto di vista, ha portato un grande squilibrio. Mi piacerebbe vedere tante donne attive nella politica, nelle cose gestionali che riguardano soprattutto lo scambio economico, che poi che ci porti a uno scambio economico equo che garantisce un minimo a tutti. Chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. E rieccoci sulla Rivincita delle Bionde, quinta puntata, esplosiva Edith Piaf con Je ne regrette rien. Ma senti un po', Carlotta, dillo con la tua R palermitana. Ma sei sicura che vuoi fare sentire agli ascoltatori e alle ascoltatrici la mia pronuncia? Vai. Non riede a rien. Perfetto, una pronuncia proprio francese. Vale, ecco, dopo essermi fatta prendere in giro dalla mia collega, ringraziamo Agitu per il suo coraggio e per il suo esempio e passiamo ad un'altra donna forte, l'altra protagonista di questa intensissima e ricca puntata della Rivincita delle Bionde. L'altra protagonista è Princess Okoconne. Princess, vittima di tratta della prostituzione e ora per fortuna mediatrice culturale di Piam di Asti, è invece arrivata a Torino nel 1998 con un'organizzazione di trafficanti ed è stata purtroppo costretta a prostituirsi. Comunque, dopo essere finita in ospedale per le violenze subite, ha deciso di scappare e ci è riuscita grazie all'aiuto della Caritas e di Alberto Mustino, presidente del progetto Integrazione Accoglienza Migranti, appunto PIAM, diventato poi suo marito. Questa è una cosa bellissima che ha reso felicissima soprattutto la nostra amata Erika. Eh beh sì, è una bella sorpresa. È un'inguaribile e romantica, non ci possiamo fare nulla. Comunque, bando alle ciance, oggi Princess è mediatrice del PIAM e aiuta ragazze con storie come la sua a riscattarsi appunto dallo sfruttamento e integrarsi attraverso lo studio e il lavoro. Assolutamente, Princess in una intervista che ha lasciato durante un incontro ha detto che si è trovata molto bene in Italia soprattutto perché ha avuto la possibilità di studiare e di trovare un lavoro che sia utile sia a se stessa ma anche ad altre donne che hanno subito una condizione di sfruttamento come la sua. Ma per saperne di più, ascoltiamo direttamente le parole di Princess. Sono Princess Kenya, vengo dalla Nigeria. Sono arrivata in Italia nel 1999 a Torino tramite organizzazione trafficante. Mi è obbligato di andare a fare la prostituzione. Così ho iniziato a fare per circa 6 mesi prima che riuscita a scappare. Quando abbiamo fondato Pia Mundus, nel 2000. Io ho aiutato tante donne nigeriane, anche tanti anni fa abbiamo aiutato anche donne di Est Europa. Abbiamo anche inserimento scolastico, inserimento lavorativo. Vogliamo continuare a aiutare le donne, specialmente quelle che sono schiave, no? Per avere la loro libertà. Parliamo di libertà in qualsiasi modo che possiamo aiutare queste donne. Within children is to be use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. Blaming, we could get a better condition. Wake up, world! Wake up, world! Wake up and stop sleeping. Wake up, Africa! Wake up and stop blaming. Wake up and stop blaming. Open your eyes. Stand up and arise. We'll block all our penalty. Us. Knowledge and selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse our guns. Wake up, world! Wake up and stop sleeping. Wake up, Africa! La rivincita delle bionde. Oltre la cultura dello stereotipo. eccoci ritrovati sui 103.1 FM per la rivincita delle bionde, sempre con Erika e Carlotta. Questa volta è toccata ad Africans di Nika, quindi una canzone che parla del paese africano, quindi rimaniamo sempre in tema. Esattamente, infatti la terza protagonista di questa puntata è Baris di Rie. Baris è nata in una famiglia nomade nel deserto somalo al confine con l'Etiopia. All'età di 5 anni ha subito la procedura disumana di mutilazione genitale femminile e questo terribile crimine contro le donne è praticato purtroppo in tutto il mondo da musulmani e cristiani. Secondo le stime dell'OMS, pensate, 8.000 bambine ogni giorno diventano vittime di questa brutalità disumana. E Baris di Rie, all'età di 13 anni, fuggì da un matrimonio forzato con un uomo che sarebbe potuto essere suo nonno e dopo essere scappata riuscì ad arrivare a Londra e iniziò a lavorare come cameriera prima e poi al McDonald's come donna delle pulizie. All'età di 18 anni però è stata scoperta dal famoso fotografo di celebrità britannico Terence Donovan e fotografata come modella per il calendario Pirelli, pensate. E infine si è trasferita da Londra a New York ed è diventata una delle primissime top model africane. Esatto, dopodiché è stata intervistata da innumerevoli testate giornalistiche grazie alle quali il mondo è venuto a conoscenza della sua comunque terribile storia all'inizio. Infatti lei ha deciso di raccontare il crudele rituale delle mutilazioni genitali femminili e quindi anche il suo stesso destino, che ha provocato ovviamente un'ondata di protesta in tutto il mondo contro appunto questo abominio. Comunque, dopodiché lei venne nominata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, come ambasciatrice di buona volontà nella lotta contro le mutilazioni appunto genitali. Da quel momento in poi lei inizia a viaggiare per conto appunto delle Nazioni Unite in tutto il mondo. Inizia a partecipare a conferenze, incontra presidenti, vincitori del premio Nobel, divi del cinema e così via. Dopo aver ricevuto tra l'altro numerosi premi e riconoscimenti, nel 2002 fonda la sua fondazione, scusate il gioco di parole, denominata Baris di Rie Foundation, per sostenere appunto il suo lavoro come attivista contro le mutilazioni genitali femminili. Nel 2010 poi la fondazione è stata ribattezzata Desert Flower Foundation. E, tra l'altro, la squadra della fondazione è composta da uomini e donne impegnati per l'uguaglianza di genere, i diritti umani, e tutti condividono l'ideale di Baris di fermare l'infibulazione, quindi la mutilazione genitale femminile. E tra l'altro questa associazione, la sua associazione, prende il nome da un libro che Baris ha scritto e che si intitola appunto Desert Flower, ovvero Fiore del Deserto, dal quale è stato tratto anche un film. E proprio da questo film abbiamo estrapolato una parte significativa, che è il finale, ma niente paura perché non ci sono spoiler, in quanto si tratta semplicemente del discorso che Baris pronunciò all'Assemblea dell'ONU quando fu eletta ambasciatrice. Perciò andiamo ad ascoltare le sue splendide e potenti parole. Io amo mia madre, io amo la mia famiglia e amo la mia Africa. Per oltre 3.000 anni le famiglie hanno creduto davvero che una figlia non circoncisa non è pulita, perché quello che c'è tra le nostre gambe è sporco. Quindi deve essere rimosso e cucito come prova. La prova della nostra verginità e virtù. E la notte del matrimonio, il marito prende una lama o un coltello e taglia per aprire, prima di costringere la sua sposa ad avere un rapporto. Una donna che non viene circoncisa non può sposarsi. Di conseguenza viene espulsa dal suo villaggio e messa allo stesso livello di una sgualdrina. Questa pratica continua, anche se non è scritta sul Corano. È accertato che per effetto di tale mutilazione, le donne si ammalano mentalmente e fisicamente per il resto della loro vita. Le stesse donne che sono la spina dorsale dell'Africa. Io sono sopravvissuta, ma le mie due sorelle no. Sofia è morta dissanguata dopo la mutilazione. Ed Amina è morta durante il parto con il bambino in grembo. Quanto potrebbe diventare forte il nostro continente se questo rito insensato venisse abolito? Un proverbio della mia terra dice: l'ultimo cammello della fila è veloce quanto quello in testa. Qualunque cosa accada ad uno solo di noi ha un effetto su tutti noi. Quando ero piccola dicevo che non volevo essere più una donna, perché è davvero molto doloroso e difficile da sopportare. Però ora sono cresciuta e sono fiera di quello che sono. Ma per amore di tutti quanti noi, dobbiamo cercare di cambiare che cosa vuol dire essere una donna. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Come al solito, Erika ha spoilerato la pillola del giorno. In realtà, a sua discolpa, per questa volta, in questa puntata ci stava. Infatti, la pillola del giorno è appunto questo film, Il fiore del deserto, fatto dalla regista Sherry Horman, che ovviamente parla della storia della vita di Varys e Darie, e tratta dal suo romanzo, appunto, che ha scritto lei stessa. E siamo arrivati alla conclusione della puntata e vi vogliamo salutare ripetendo una frase che Varys, durante il discorso dell'ONU, pronuncia, che è un proverbio, ossia, Carlotta? Esatto, un proverbio somalo che dice: l'ultimo cammello della fila è veloce quanto quello in testa. Ovviamente il significato di questo proverbio è che qualunque cosa accade su uno solo di noi è effetto su tutti noi. E che dire, con queste potentissime parole la puntata termina qui, ma noi vi aspettiamo lunedì prossimo, sempre dalle 13 alle 13.30 sui 103.1 di Radio Città Fucico. E vi ricordo che potete guardare la nostra pagina Facebook La Rivincita delle Bionde e anche la pagina Instagram La Rivincita delle Bionde per tenervi sempre aggiornati e guardare le foto di Erika con delle facce buffe. Benissimo, alla prossima, ciao! Ciao!